verso mondi lontani, è come le foglie ti accartoccerai, il vento ti raccoglie. Ti addormenterai, ecco che la tua stanza si chiude e si aprono le porte della verità, tutto si nasconde. Come fanno tutti quei bambini senza età, che non hanno gloria, planerai nel buio, ma poi ti risveglierai in un'altra storia. Come fanno i bianchi e i rossi, forse un giorno volerai davvero. Ora dormi, stringi i pugni e vai. Ti quasi in braccio il tuo immenso respiro e in faccia alle stelle ti risveglierai, il vento sulla pelle. Stringerai il cuscino e nel buio tremerai, freddo il tuo tormento.